Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata a tutti, benvenuti a Magazine 24, puntata del sabato. Parliamo di scuola perché proprio non riusciamo a evitarlo con i settimanali che abbiamo visto in questi giorni. In che senso? Nel senso che un po' dappertutto i settimanali hanno scelto di puntare sull'apertura dell'anno scolastico. Apertura dell'anno scolastico che, come sappiamo, come avete sentito anche qui a Radio 24, è stata costellata da proteste, chiarimenti, dibattiti e quant'altro, tra specialmente legati alle questioni degli insegnanti precari, dei tagli, le decisioni del ministro e così via. E il quadro che poi si ricava dai settimanali non è proprio uniforme. Ad esempio su Donna Moderna si pone l'accento sul costo, sicuramente un problema vero, un problema molto sentito, scuola mia quanto mi costi. Su L'Espresso si parla di poveri professori in tutti i sensi, cioè in senso spirituale ma anche in senso proprio economico, perché anche gli stipendi, le retribuzioni di questi professori, dei nostri professori, sono, avverte L'Espresso, tra le più basse del mondo. Su Panorama la lettura è completamente diversa, si dice, ecco, chi vuole uccidere la scuola, e si pone l'accento invece sui paradossi per cui gli studenti italiani hanno il più alto numero di docenti, studiano più ore che negli altri paesi europei, ma poi nei test internazionali si vede invece che sono i meno preparati. C'è qualcosa che non torna, avverte appunto Panorama. E infine, quasi a chiudere, ma ripeto, ci sarebbero altre citazioni possibili dai settimanali in edicola in questi giorni, ieri con Repubblica il venerdì parla di mal di scuola. Cosa sarebbe? Sarebbe questa sindrome che può affliggere alcuni alunni, specialmente nei primissimi anni. Dice: sono sempre più intelligenti ma sono svogliati. Perché? Perché, avverte il venerdì, è tutta una questione di paura. Cerchiamo di mettere ordine, naturalmente non c'è un modo di leggere univocamente tutti questi numeri, tutti questi dati, dobbiamo accontentarci di dare qualche dato qua e là, qualche numero qua e là, e poi naturalmente vi rimandiamo proprio alla lettura dei settimanali. Allora cominciamo magari dall'Espresso. Vi dicevo, povero professore, professioni in crisi, è il sottotitolo di questa inchiesta di Emiliano Fittipaldi. Si avverte che gli stipendi sono tra i più bassi del mondo, c'è il precariato, una scarsa considerazione sociale, e questo poi nella lettura dell'articolo sembra essere uno dei problemi maggiori effettivamente che affliggono i docenti. E poi le classi affollate, naturalmente, a volte addirittura aggressioni. È sempre più dura, scrive Fittipaldi, la vita per gli insegnanti italiani. L'articolo comincia con la segnalazione di alcuni episodi proprio di violenza a danni dei professori, dei docenti, e su questo commenta Chiara Saraceno, che è una sociologa, dice: negli ultimi 10 anni uno dei lavori più precarizzati e peggio pagati d'Italia è diventato anche stressante e faticoso, a volte è persino pericoloso. È una conseguenza indiretta, a giudizio della Chiara Saraceno appunto, della perdita di autorevolezza e della diffusione di comportamenti fino a poco tempo fa considerati inaccettabili. Negli ultimi 12 mesi si sono registrati decine di casi di violenza contro professori, da Trento alla Sicilia. E poi si fanno appunto altri casi, aggressioni a maestri, aggressioni a professori delle superiori, uso di strumenti da taglio, di armi da taglio nelle classi e così via. Insomma, lo leggiamo, lo sentiamo purtroppo tutti i giorni, quasi con una notevole frequenza, lo stato della poca sicurezza complessiva che sembra attanagliare i nostri professori. Veniamo a qualche numero. Quello degli stipendi, appunto, effettivamente si segnala che gli stipendi italiani per come retribuzione annua sono molto in basso, perché in Danimarca un maestro elementare può contare su 33.000 euro di retribuzione annua se ha almeno 15 anni di anzianità, in Inghilterra si passa a 34.000, in Francia 29.000, in Italia siamo a 24.000, quindi siamo decisamente sotto. In Germania addirittura, che è il valore più alto, 42.000 euro euro di retribuzione annua. Non va meglio, non va molto meglio salendo, perché alle medie inferiori la retribuzione annua di un insegnante appunto con 15 anni di anzianità in Italia è 26.000 euro, in Germania è 46.000 euro, in Irlanda è 42.000 euro, e alle superiori si sale poco poco, perché da 26.820 euro si segnalano 27.570 euro, quindi una crescita modesta tutto sommato. Invece lo stipendio di un insegnante tedesco è 49.714 euro annui, quindi c'è questo problema sicuramente di una professione che non ha retribuzioni laute. Avverte anche Fittipaldi nel suo articolo: le dotazioni sono ai minimi termini, un po' di più, dice, finisce nelle tasche di professori di medie e licee. In Germania e Svizzera i colleghi guadagnano quasi il doppio, la Spagna viaggia su altri livelli. Ma il problema e poi che c'è una mancanza, si diceva, una mancanza di prestigio. Se un tempo l'insegnante di scuola e il farmacista appartenevano di fatto alla stessa classe sociale, oggi il docente è finito in basso alla gerarchia sociale. Non solo perché la professione è pagata una miseria, ma anche perché il prestigio e l'aura di cui si ammantava sono ormai un lontano ricordo. I genitori, sono ancora parole di Chiara Saraceno, si sentono superiori ai maestri dei loro figli, così nascono la mancanza di rispetto. Gli stipendi bassi hanno poi provocato reazioni sbagliate da parte di una categoria che, ricevendo poco, restituisce ancora meno. Bisognerebbe, avverte la Saraceno, spezzare il circolo iniziando a premiare i professori più capaci e meritevoli. Questo trovate sull'Espresso, tutt'altro taglio, vi dicevo, su Panorama. Il taglio è diciamo più posto sulle posizioni del ministro Gelmini, quindi chi vuole uccidere la scuola, e gli stessi numeri poi vengono anche letti in una prospettiva differente. Ad esempio, il numero di studenti in classe di cui effettivamente si è parlato molto in questi giorni, come valore medio l'Italia non è poi messa così male, perché risulta che nella scuola secondaria l'Italia abbia un numero di studenti in media per classe di 21 studenti. Stanno molto peggio i giapponesi, 33,2, ma persino gli Stati Uniti stanno quasi a 23, quindi un valore ancora superiore. Meno studenti per classe in Grecia, ad esempio, dove ce n'è 16,8 nella primaria, ma diciamo lo stesso valore più o meno per la secondaria. Quindi il valore, diciamo, medio, perché poi naturalmente bisogna andare a verificare sul territorio qual è la distribuzione di questa media, ma il valore medio non è così alto rispetto ad altri paesi europei. Certo, c'è poi il problema, come avverte lo stesso Giovanni Biondi nell'articolo che è firmato da Romana Liuzzo e da Donatella Marino. Giovanni Biondi, che è il capo dipartimento programmazione al Ministero dell'Istruzione, dice: ci sono 2.000 classi che hanno 30 o più studenti, però ce ne sono 4.000 che ne hanno 12 o meno di 12. Quindi la distribuzione non è davvero uniforme. Dipende da cosa? Dipende dalla collocazione geografica in primo luogo. A Roma ci sono classi con 35 alunni, sono ancora parole di Giovanni Biondi riportate dall'articolo di Panorama. Nei piccoli paesi del Lazio gli alunni scendono anche a 13. Sugli stipendi i valori, devo dire, pur presi dalle stesse fonti, risultano leggermente superiori di quelli presentati sull'Espresso. Non vi voglio annoiare con troppi numeri, potete fare un confronto da voi, però la sostanza non cambia di molto. Effettivamente i nostri insegnanti non risultano davvero strapagati. E poi c'è naturalmente una replica, una precisazione da parte del ministro di istruzione, la signora Maria Stella Gelmini, che in una intervista appunto difende le sue scelte per questo anno scolastico. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Stiamo parlando di scuola. Tra l'altro mi fa piacere ricordarvi che di scuola si parlerà naturalmente come ogni sabato anche alle 12:40 in obbligo di frequenza. Piera Ceci quest'oggi affronterà tra l'altro il tema del tetto del 30% degli alunni stranieri, un tetto che è stato introdotto lo scorso anno, che si fa fatica a rispettare proprio per una difficoltà logistica nella organizzazione delle scuole. Ma per questo vi rimando appunto appunto a obbligo di frequenza, 12.40 sempre su Radio 24. Veniamo a una cifra invece, ad alcune cifre che mettono d'accordo tutti, cioè i costi. Scuola mia, quanto mi costi? È la segnalazione di Maria Adele De Francisci su Donna Moderna di questa settimana. In questi giorni i figli tornano in classe, i genitori pagano. Per comprare i testi di studio sborsano in media 918 euro. Troppi, secondo le famiglie, ma nessuno, editori e presidi, ammette le responsabilità. Eppure le soluzioni ci sarebbero. L'articolo precisa appunto questa cifra di 918 euro, viene da una stima di Federconsumatori fatta insieme ad Adusbef. Un'indagine di queste due associazioni di consumatori dice che tra libri, cartelle, astucci, quaderni, la spesa totale per le famiglie ammonta in media a 918 euro. Quindi per far studiare un figlio, questa è la cifra che si spende in un anno. Tra l'altro questa cifra, sempre secondo le associazioni di consumatori, sarebbe del 4% in più, aumentata del 4% rispetto al 2009. Cifre che esasperano i genitori e non si fa fatica a capirlo. Ci sono stati anche momenti di tensione per potersi vedere attribuiti i buoni, appunto gli aiuti che lo Stato o le regioni assegnano alle famiglie nell'acquisto dei libri. Secondo le associazioni di consumatori si potrebbe evitare questo tipo di tensioni se le scuole rispettassero i tetti di spesa che vengono fissati dal Ministero. Il Ministero dice che in prima media non si dovrebbero spendere più di 286 euro e nelle superiori circa 300 euro. Secondo il presidente Codacons, che è stato appunto sentito da Maria Adele De Francisci, i casi sono due: o il tetto ministeriale è basso oppure gli istituti ignorano le direttive. Probabilmente in realtà esistono tutte e due le cause, perché riferisce ad esempio il direttore scolastico provinciale Giuliana Pupazzoni, sempre sentita dalla De Francisci, c'è una indicazione molto chiara dal Ministero: far risparmiare le famiglie deve essere una priorità, ma Ulisse Iacomuzzi, che è a capo del settore educativo dell'Associazione Italiana Editori, dice che il tetto di spesa ministeriale non è uno strumento attendibile. Perché non è attendibile? Perché non è aggiornato da anni, non tiene conto dell'aumento del costo della vita. Secondo AIE comunque la media degli aumenti dei libri di testo è dell'1,4% in più all'anno e mai oltre il tasso di inflazione. Poi ci sono state le decisioni del ministro, che già dall'anno scorso ha impedito di modificare i libri per almeno 5 anni alle elementari, 6 anni alle superiori, e così cercando di evitare alle famiglie l'acquisto forzato di nuove edizioni dello stesso libro. Non sono invece mai decollati, lo ricorda appunto Donna Moderna, i testi online, che erano stati annunciati come un antidoto al caro libri, ma che purtroppo non hanno trovato grande fortuna. Stamparli è antieconomico e in pochi possiedono gli strumenti necessari per studiare senza fatica sullo schermo del computer. Quindi il caro libri che esiste, anche se le cause sembrano difficili da identificare e quindi anche le soluzioni non così semplici da trovare. E allora chiudiamo queste segnalazioni sulla scuola con il mal di scuola. Speriamo di non suscitare eccessivo allarme. Il lavoro di Giuliano Aluffi viene presentato sul Venerdì, è stato presentato ieri sul Venerdì, che avete trovato con Repubblica. Di cosa si tratta? Si tratta di questo comportamento di rifiuto scolare, così si chiama, dietro i capricci che in genere sono sintomi di quella che anche gli adulti possono vivere come una normale poca voglia di affrontare il ritorno al lavoro. Però può celarsi un problema più serio se il bambino si rifiuta di andare a scuola ogni mattina, se finge malori per farsi venire a riprendere, piange al ritorno da scuola e così via. E soprattutto, avverte Aluffi, se questo comportamento dura per molto tempo, più di 2 settimane, ostacola poi il normale funzionamento della vita familiare, allora è necessario intervenire. C'è un libro che hanno scritto due psicologi dell'età evolutiva, psicologi americani, Christopher Kearney e Anna Maria Albano, Quando i bambini rifiutano la scuola è il titolo del libro. Ci sono anche dei consigli, ci sono 5 regole d'oro. Troviamo che se il bambino non vuole andare a scuola per bisogno di attenzione, i genitori non devono discuterne lungamente con lui, cioè concedergli attenzione, altrimenti premiano proprio il comportamento indesiderato. In classe però i bambini che hanno una ansia scolare tendono a rendersi invisibili agli altri, quindi se il maestro dice ai genitori vostro figlio è un bambino così tranquillo che non mi accorgo nemmeno che è in aula, può anche non essere una buona notizia, a meno che non si trovi in una classe particolarmente turbolenta. Poi gli altri tre consigli dicono che fa bene far conoscere al bambino le varie parti della scuola, classi, corridoi, palestre e così via. Se ci sono dei giorni di assenza, far tenere comunque un ritmo scolastico, parascolastico al bambino, e se poi il bambino è pessimista, bisogna fargli notare alcuni successi, alcune cose in cui è riuscito, ad esempio riuscito ad andare in bicicletta senza rotelle o altri successi che può aver ottenuto. Questo migliorerà la fiducia del bambino in se stesso. E da ieri con il Sole 24 Ore avete trovato anche il Intelligence in Lifestyle, il mensile con il Sole 24 Ore. In questo numero ci sono diverse cose molto interessanti, come sempre ve ne voglio segnalare una in particolare. Ci sono 24 miti da sfatare, ovviamente il numero non è scelto a caso, come potete immaginare. I miti da sfatare a proposito di che? A proposito dell'essere più o meno rispettosi dell'ambiente, e c'è qualche cosa anche di sorprendente. Ad esempio, la borsa di carta, leggo da Il, non è amica dell'ambiente più di quella di plastica. In realtà la borsa più ecologica è quella di tela. Oppure non serve abbassare o spegnere addirittura il riscaldamento quando usciamo da casa per poi riaccenderlo, questo in realtà fa consumare di più, meglio abbassare la gradazione desiderata. Questi e molti altri consigli li trovate su Il, ancora in edicola con il Sole 24 Ore, in vendita con il Sole 24 Ore. E per oggi il nostro tempo si è concluso. Io ringrazio Roberto Scaltritti in regia questa mattina, grazie come sempre a Margherita Ina e ad Anita Panizza che mi hanno aiutato a preparare questo programma. Potete riascoltare, se volete, sia Magazine 24 sia tutti gli altri programmi della nostra radio sul nostro sito www.radio24.it. Magazine 24 ritorna domani mattina.